e benvenuti alla 19ª puntata di Cialtroni nello spazio. Ciao, io sono Fabio. Ciao da Marco. Ciao da Alessandro. E Marco adesso ci spiegherà che cos'è Cialtroni nello spazio. È una trasmissione informatico-musicale. Attenta. Parla nel microfono magari. Una trasmissione informatico-musicale, tra un po' lo mangio. Attenta ai problemi di delle licenze libere e... Una trasmissione di libera cultura in una libera rete per libere menti. Tu sei un cane, perché tutte le volte fai questa domanda io sono sempre più impreparato. Allora, andando avanti con la trasmissione di oggi, che non sta iniziando benissimo, direi che possiamo dare un'occhiata a quali saranno gli argomenti. Molte news per la giornata di oggi, vero Alessandro? Sì, molte news, e le prenderemo un po' tutte insieme, cercando di fare un ragionamento sul... Insomma, su come vengono, come sono le leggi e come viene gestito il diritto d'autore in generale, cosa porta, che conseguenze portano appunto queste leggi estremamente restrittive e l'assurdità dei prezzi imposti dalle major, nemmeno dai produttori. Insomma, una serie di notizie che si accavallano su questo tema. Poi andremo a presentare un sito brevemente che appunto dà una serie di libri disponibili online, che si chiama www.liberacultura.it, e poi un paio di un link, paio di gag carine, dai, mettiamolo così. Sì, insomma, per riderci sopra, e comunque vediamo se stiamo coi tempi, quindi non le mettiamo in scaletta, seguiteci. Musica? Musica, allora... breve oggi, si chiamano Transmission, non so dirvi nulla di loro, nel senso che non mi hanno spedito nessun tipo di informazione, però esistono, non sono su internet, sono un gruppo assolutamente emergente, nel senso che non hanno pubblicato con nessuna casa, sono in trattativa per la tenda migranti, quindi vi beccate anche questa serie di... E quindi iniziamo a parlare anche della festa della radio, presentando in anteprima alcuni che potrebbero magari un giorno forse suonarci, no, entro mercoledì lo saprò. Va bene, perfetto, questo iniziamo primo in qualche pezzo. Modo, perfetto. Yeah. Iniziamo a parlare un po' di news, di fatti che sono avvenuti recentemente. Iniziamo in particolare con un episodio pazzesco di repressione. Marco, di che cosa si tratta? Allora, c'era fino a qualche giorno fa una rete di condivisione di materiale su internet, si chiamava Cucciolandia, un nome carino, simpatico. Era una rete fatta di client open NAP, un protocollo tipo Napster. Per quelli che magari utilizzano WinMX o altri, esatto, client, sì, più diffusi sotto Linux come Loopster, insomma un po' meno diffusi forse ultimamente, però che sicuramente avranno avuto un certo successo in passato. E che cosa? C'è stata un'operazione della polizia postale, l'operazione denominata Pastora Abruzzese, qua veramente con i nomi stanno raschiando sul fondo del barile. Questa operazione Pastora Abruzzese ha portato a beccare 55 criminali che avevano appunto la colpa di condividere materiale copyrightato su internet per violazione delle leggi sul diritto d'autore e incredibilmente anche per associazione a delinquere. L'operazione, tra l'altro, e questa è una nota molto carina, ha individuato un elevato numero di persone che partecipava a questa rete, e queste persone adesso sono, diciamo, conosciute dalla polizia postale. Sono circa 100.000 persone, una cifra decisamente non trascurabile, un concerto di grandi dimensioni, sono 100.000 persone. Si tratterebbe del primo caso in Italia in cui potrebbe essere applicata la legge Urbani, criticata pesantemente l'anno passato quando è stata trasformata da decreto a legge, e che comunque è tuttora in vigore con tutte le sue incoerenze interne e con tutta la durezza delle pene. Quindi effettivamente questi 100.000 utenti rischiano parecchio, rischiano un procedimento penale ognuno di questi 100.000. Esatto, non vogliamo soltanto pensare cosa succederebbe se veramente la procura andasse contro tutte queste 100.000 persone, riempirebbe, intaserebbe le caselle, cioè gli uffici postali di mezza Italia, e alle udienze dove li metti 100.000 persone? Buono. Per collegarci a questa, la repressione pazzesca che c'è nei confronti di chi condivide o utilizza materiale degli altri, c'è un esempio abbastanza carino che parla di quello che è lo stato attuale della legge sul copyright. Se noi entrassimo in California in un negozio di dischi per rubare un CD, rischieremmo fino a $1,000 più o meno di querela e comunque di una discreta sommetta, però una cosa ancora che si entra all'interno di quello che è considerabile come un furto. Se invece si viene colti sul fatto quando si scarica dai circuiti peer-to-peer, quindi da Napster o da altri software, Napster non esiste più, altri software tipo Napster che permettono di condividere la musica, si può rischiare fino a $1,500,000, quindi insomma la sproporzione tra le due cose è veramente allucinante. Tra l'altro, sempre sotto questi toni, per capire cosa vuol dire la legge sul copyright, potremmo prendere anche un esempio che è pubblicato all'interno del libro di Lawrence Lessig, appunto appena pubblicato da Apogeo, che si intitola Cultura Libera e costa circa 15, anzi costa precisamente 15 euro, o è possibile anche scaricarlo online all'indirizzo www.liberacultura.it. E sulla sinistra in alto ci sono tutti i libri disponibili da questo sito. Ecco, da questo libro prendiamo la storia di un autore cinematografico, John Hells, che aveva fatto un documentario sui macchinisti dell'opera di San Francisco, e in questo documentario, in cui si parlava appunto di Wagner, a un certo punto vengono ripresi alcuni operai, alcuni macchinisti che stanno guardando una televisione. In questa televisione, in un francobollo dello schermo, quindi di quello che è il lavoro finale, si vedono 4,5-4 secondi e mezzo di scene di un cartone animato abbastanza famoso, i Simpson. Quindi un francobollo di Simpson della durata di un battito di ciglia all'interno di un documentario su Wagner. Il documentarista John Els ha chiamato Matt Groening, che è il fondatore, l'inventore dei Simpson, che ha detto che non probabilmente c'era... Probabilmente forse anche solo più per scrupolo di vedere, di non... Probabilmente per conoscerlo, perché ne era un fan, questa è la spiegazione più chiara che mi viene in mente, però il fatto che uno per 4 secondi e mezzo di cartone animato decide di chiamare l'autore del cartone animato. Matt Groening ovviamente gli ha detto che non c'era nessun tipo di problema per utilizzare questa scena. La casa produttrice del programma, si chiama Gracie Film, ha detto che non c'era nessun problema, potevano pure usare la scena. La Fox è invece la casa madre che li distribuisce. Marco, lascio a te concludere sulla risposta che ha dato l'ufficio legale della Fox. Esatto, la Fox ha semplicemente chiesto $10,000 per permettere appunto a questo regista di utilizzare questi 4,5 secondi nel suo filmato. Una cosa clamorosamente assurda, perché nel creatore, nel produttore del programma avevano concesso l'utilizzo, ma in realtà il distributore ha chiesto $10,000 per inserire questo pezzettino. Una cifra folle che ancora una volta ci fa venire dei grossi dubbi sul che senso abbia la legislazione del copyright oggi. Fondamentalmente sono tutta una serie di leggi asservite ai grandi produttori cinematografici. A maggiore prova di questo. A questo punto non resta che dare un consiglio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di spegnere la televisione quando utilizzano la loro videocamera amatoriale, perché se per caso dovessero riprendere qualcosa potrebbero essere denunciati. A questo riguardo è uscita anche una notizia su Slashdot. In Inghilterra si sta pensando di prolungare il diritto di copyright sui prodotti intellettuali, anzi in particolar modo sulla popular music, quindi non su tutti i prodotti intellettuali, da 50 a 100 anni, cosa già avvenuta in America qualche anno fa, già avvenuta in Italia. Ovviamente la scadenza non è casuale proprio in questo periodo, perché in questo periodo sta scadendo, o meglio, a breve scadrà il copyright su alcuni brani dei Beatles, come Love Me Do, Please Please Me, e che dovrebbero scadere circa nel 2013. E ovviamente la cosa carina è che spesso i diritti di copyright vengono estesi quando stanno per scadere i diritti su Topolino. Beh, quella negli Stati Uniti appunto era avvenuta qualche anno fa, alla scadenza dei diritti su Topolino, che tutt'oggi permette alla Disney di incassare svariati milioni di dollari. E comunque anche sulla produzione dei Beatles sono in scadenza comunque a breve, 4-5 anni, comunque ci si muove per tempo in questi casi, e dovrebbe estendere le royalties appunto oltre il 2063, o comunque fino al 2063, e fa abbastanza pensare questa cosa, come si possa estendere il diritto di copyright anche quando chi ha prodotto effettivamente l'opera ha già ampiamente goduto di questi diritti, oppure addirittura è morto, quindi non ne gode più, e come tutto questo serve invece solamente alle compagnie che ne detengono i diritti, e come questo sia assolutamente ingiusto per quanto riguarda le opere intellettuali, che ormai sono diventate patrimonio comune dell'umanità, come appunto Love Me Do o cose del genere, o come Topolino. E mentre cerchiamo di contattare un avvocato di fiducia che ci darà un commento appunto sulla notizia degli arresti, ascoltiamo il secondo brano dei Transmission. Thank you. Purtroppo non riusciamo in questo momento ancora a collegarci con l'avvocato, quindi continuiamo a parlare di quello che sta succedendo. Anzi no, invece vedo dei segni da parte di Marco che ci dice che ha raggiunto l'avvocato. Devi schiacciare 211 e poi riattaccare e poi dovremmo essere ora in collegamento appunto con l'avvocato. Pronto? Ci siamo. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. È stato contattato da Marco, quindi lascio subito la parola a Marco. Ok, datemi le cuffie perché non lo sento, sennò. Ok, tutto ovviamente in diretta registrata. Esatto, perfetto. Allora, ciao Stefano, volevamo appunto, abbiamo letto appunto la notizia di poco fa dell'arresto delle 55 e 54 persone, non ho ancora capito quante sono, non dell'arresto, della... I pericolosissimi scaricatori di canzonette, insomma. Esatto, che sono stati addirittura accusati di associazione a delinquere. Sì, anch'io conosco la vicenda attraverso i giornali, non attraverso atti più precisi. Non si è parlato di arresto, ma comunque di istituzione a un registro degli indagati, e per la prima volta in Italia è stata contestata l'associazione a delinquere finalizzata alla violazione del diritto d'autore. E si tratterebbe di un gruppo di ragazzi di età tra i 18 e i 20-25 anni, quindi giovanissimi, che attraverso i programmi peer-to-peer scambiavano tra di loro film, CD, MP3, insomma, una condotta che è abbastanza comune tra gli utenti di internet. Esatto, però diciamo l'associazione al delinquere è una cosa abbastanza pesante anche dal punto di vista... Sì, è sicuramente un reato molto grave, perché è sanzionato con la reclusione da 3 a 7 anni, mentre le violazioni al diritto d'autore ipotizzabili nei confronti di coloro che utilizzino internet per scaricare materiale protetto arrivano fino a un massimo di 3 anni di reclusione. Sono comunque reati, ma molto più lievi. È la famigerata legge Urbani, questa di... Esatto, esattamente, che ha modificato la legge sul diritto d'autore. L'associazione Delinquere per adesso è comunque solo ipotizzata dal pubblico ministero, mi sembra di Sulmona. Non so quanto facilmente sia dimostrabile, ecco, se questi ragazzi, come ho preso dei giornali, anche d'accordo tra di loro, ma si limitavano a scambiarsi utilizzando programmi peer-to-peer dei programmi, non vedo come potrebbe ritenersi sussistente un'ipotesi associativa, di reato associativo, che richiede comunque una struttura, un'organizzazione, una suddivisione di incarichi, la presenza di capi, la conoscenza degli stessi partecipi, mentre è facile immaginare che molti di questi ragazzi non si conoscessero tra di loro. È, diciamo, un'ipotesi forse, ecco, arrivo a dire, contestata più per attirare il clamore dei media, piuttosto che per reale convinzione da parte del pubblico ministero. Però, ripeto, è un'impressione che mi sono fatto leggendo la notizia sui giornali, senza conoscere approfonditamente gli atti. Per quanto riguarda poi il reato sulla violazione della legge Urbani, della legge sul diritto d'autore, si tratta di appurare se questi ragazzi agivano innanzitutto a fine di lucro o a fine di profitto, ovvero sia se scaricavano per rivendere questi i film, le canzoni, oppure per un uso meramente personale. Perché nel caso di un uso personale non siamo di fronte a un reato, ma a un semplice illecito amministrativo. Lì nella legge non giocavano sullo scopo di profitto rispetto allo scopo... Questa è una delle introduzioni, la famigerata legge Urbani ha proprio introdotto questa modifica abbastanza deleteria, ovvero sia ha reso sanzionabile a livello penale anche la diffusione a fine di profitto. L'unica cosa che rimane non colpita dalla legge penale, cioè che è sanzionata solo amministrativamente, è il download per uso personale. Se io invece scarico e diffondo anche per un fine di mero profitto, cioè parole povere, chi utilizza WinMX, chi utilizza Emule, un classico programma peer-to-peer, è obbligato dalla natura stessa del programma a condividere ciò che scarica, e così facendo però integrerebbe uno dei reati previsti dalla legge Urbani, cioè comunque diffonde il materiale anche a fine di profitto. E questa è una delle cose che rende particolarmente deleteria questa legge e in teoria incriminabile tantissimi degli utenti medi di internet. Ecco, tra gli utenti di questo sito, comunque da questo sito sono state, diciamo, rintracciate un centinaio di utenti, cioè 100.000 100.000 utenti. Ecco, secondo lei quanto è possibile che tramite l'indagine della polizia postale il magistrato inizi, diciamo, un'azione penale o civile, a questo punto penale, nei confronti di questi 100.000 utenti? Ecco, premetto che le intercettazioni a livello telematico sono piuttosto difficili e costose, e quindi non so quanto interesse possa esserci da parte di chi deve condurre le indagini di andare fino in fondo per ciascuno di questi, per un numero così elevato di persone. Verosimilmente, diciamo... la maggioranza avrà scaricato per fini di uso personale. Nel momento in cui non sarà possibile dimostrare una successiva diffusione del prodotto scaricato o una successiva vendita, il pubblico ministero necessariamente dovrà rinunciare ad esercitare l'azione penale nei confronti di queste persone. E quindi forse il fatto di colpirne però in questo caso solo 55 su 100.000 è forse l'idea di colpirne uno per educarne 100? O... Verosimilmente sì, probabilmente si vuole dare un messaggio. Non dimentichiamo che il giro di vite introdotto dalla legge Urbani è stato fatto chiaramente su pressioni delle case discografiche e dell'industria cinematografica in genere. E se poi questa legge rimanesse lettera morta e nessuno desse a questa legge applicazione, non si avrebbe l'effetto di deterrenza dato dall'approvazione della legge stessa. Quindi è ipotizzabile che creare clamore intorno al caso, indagare comunque ed eventualmente rinviare a giudizio un numero così elevato anche di ragazzini che non sono criminali in Calette, hanno proprio lo scopo di colpirne uno per educarne 100. Ecco, non credo che un pubblico ministero arrivi a incriminare un numero così elevato di persone, comunque per condotte di nulla pericolosità sociale e comunque scarso danno anche a livello economico nei confronti delle case discografiche o dei titolari del diritto d'autore asseritamente violato. Magari c'è anche una, probabilmente una collusione, diciamo, tra il fatto, cioè una collusione, però un collegamento forte sul fatto che oggi o ieri era la giornata mondiale per della proprietà intellettuale, però vabbè, questo probabilmente sì, con tanto di intervento del ministro e tutto quanto, insomma, puzza un po' di tempismo all'italiana, insomma. Esatto, come il classico. Perfetto, ti ringraziamo tanto per prego, grazie a voi per avermi chiamato. Perfetto, ciao. Buona serata a tutti. Ciao ciao. Finita questa parte, andiamo un attimino a vedere due notizie carine, o meglio un po' di link che, carini. Allora, il sito è www.storewars, scritto store WARS.org. È un simpatico sito che pubblica una parodia di Star Wars, la guerra stellari. Esatto, la parodia è appunto la guerra dello store, del supermercato, insomma, del piccolo supermercato. È fatta tutta con appunto dei prodotti che si trovano nel supermercato, quindi delle uova, un cetriolo, la patata e così via. È realizzato molto bene, ovviamente è gratuito, è liberamente disponibile. E purtroppo è in inglese, quindi bisogna seguire un attimo il testo, cioè il parlato, per capire cosa vuol dire. Comunque seguite la via della fattoria, come hanno sottotitolato il progetto. Che in inglese viene the way of the farm, che sembra the way of the force. The force. Invece segnaliamo un evento che avverrà al Forte Prenestino. Di Roma, centro sociale di Roma, Centocelle, quartiere Centocelle. Allora, l'evento sarà saranno 4 giorni di mostre, il 9, il 10, l'11 e il 12 giugno. Saranno una serie di mostre legate al fumetto indipendente. Si chiama Crack, fumetti dirompenti. Lo trovate all'indirizzo crack.forteprenestino.net. E c'è tutto il programma. Comunque sono una serie di esposizioni di autori indipendenti non legati alle grandi case, che affrontano anche tematiche di movimento, ma non solo, comunque generali. È un evento interessante all'insegna appunto del no copyright. Altro invece, parliamo un attimino di un plugin, o meglio di un sito che offre un servizio, si chiama... Se voglio vedere come questo servizio lo spieghi alla radio, perché non è così semplice da spiegare. Ci provo io. Ad esempio, vi è mai capitato di andare in un sito in cui vi chiedono, non so, vi fanno vedere un pezzo di un articolo che vi interessa, però c'è soltanto magari le prime... ci sono soltanto magari le prime 10 righe, dopodiché c'è un link che dice soltanto per gli utenti registrati c'è il resto dell'articolo e poi la registrazione gratuita, però insomma è un po' una scocciatura ogni volta dover cercare, inventarsi delle nuove password, delle nuove login per entrare in questi siti, perché ovviamente non si danno mai le vere informazioni, giusto? E soprattutto tutti questi siti appunto raccolgono informazioni personali più o meno varie, che possono essere poi da quelle più impegnative come appunto l'indirizzo e così via, da quelle un pochino più banali come la mail e così via. Per evitare tutto questo c'è questo simpatico sito che si chiama bugmenot.com. Bugmenot. Sì, che si dice bugmenot, comunque significa non rompermi le scatole. Non rompermi le scatole. È un sito minimale, nel senso che voi quando aprite la pagina vi trovate la pagina vi presenta uno spazio per inserire il link del sito a cui volete accedere e cliccando sul bottone show logins vi fa vedere se qualcuno le ha immesse, password, nome utente e password per accedere a questo sito senza aggiungere informazioni. Ovviamente se non sono disponibili le informazioni, vi presenta invece una schermata che vi consiglia: fai tu la registrazione per tutti quanti, che così la prossima volta, dopo che tu l'hai fatta, per gli altri sarà possibile utilizzare le tue informazioni. Quindi ad esempio, se dovete scaricare un driver da driveritalia.it e non avete voglia di registrarvi su quel sito, andate su bugmynot.org, digitate all'interno l'indirizzo di driveritalia.it e subito dopo vi compariranno le fantastiche password. Bugmynot.com, scusate, .com. E se invece comunque vi scoccia andare tutte le volte sul sito, c'è un fantastico plugin per Firefox, cioè una di quelle cose che potete aggiungere al browser, sempre dal sito Bugmynot, trovate Firefox Extension, cliccandoci sopra in mezzo alla pagina troverete il link che si installa da solo, e questo plugin vi permette di cliccare semplicemente col tasto destro là dove dovete inserire la login sul sito che vi interessa, e lui scaricherà da solo, se sono presenti, le informazioni, quindi nome utente e password, per accedere a quel sito. Quindi è molto più comodo che andare tutte le volte nella pagina di Bugmynot. E un motivo in più per usare Firefox al posto di Internet Explorer o altri browser, perché a volte offre delle potenzialità in più. Viva Firefox! E si conclude basta. Qui la 19ª puntata. Facciamo tempo subito di partire la sigla, di salutare ascoltatori e ascoltatrici, ringraziare Fabio che dalla prossima volta sarà più integrato nella redazione, lo promettiamo. Purtroppo ci sono solo 3 microfoni ed è dura gestirseli, quindi forza. Fabio, ruba il microfono a Marco. Eccolo. Ciao, alla prossima, magari dirò qualcosa in più. E niente, vi volevo soltanto ricordare il nostro sito web, che radio.circolab.net oppure spazio.circolab.net. La sigla sta finendo, ciao.